Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Alla Camera, governo battuto sulla responsabilità civile dei magistrati. Passa a scrutinio segreto un emendamento della Lega con 7 voti di scarto. Più avanti, in effetto giorno, sentiremo tanto l'estensore dell'emendamento quanto l'Associazione Nazionale Magistrati. In Iraq, 500.000 di persone in fuga da Mosul. I qaedisti controllerebbero anche la provincia di Baiji. Il regime di Assad offre il suo appoggio al governo contro quello che definisce il nemico comune. La Commissione europea apre un'inchiesta su Apple, Starbucks e Fiat Finance. I regimi fiscali di Olanda, Irlanda e Lussemburgo potrebbero configurarsi come aiuti di Stato. Una settimana alla scadenza di TASI e IMU, entro il 16 di giugno il versamento dell'acconto. Il Brasile è pronto per i mondiali, dice la presidente Rousseff. I lavoratori della metro di San Paolo, intanto, dopo la sospensione dello sciopero, avvertono: senza accordo ci fermeremo nel giorno dell'inaugurazione. In Italia e in tutta Europa, intanto, scioperano i tassisti contro Uber. Macchine ferme a Londra, Parigi, Berlino, oltre che Milano, Roma e Napoli. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Effetto Giorno a radio24.it per scriverci, c'è la nostra pagina Facebook, se volete il mio account Twitter, Simone Spezia, oppure come sempre anche durante la trasmissione il numero di SMS 349-238-6666. Iniziamo dalla politica e dal voto a sorpresa che è arrivato questa mattina su un emendamento della Lega. Ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito. Buongiorno Elisabetta. Sì, buongiorno. Intanto bisogna dire che lo scrutinio segreto non porta bene al governo, perché l'esecutivo e la maggioranza sono stati battuti alla Camera sulla responsabilità civile dei magistrati. Passato infatti un emendamento della Lega nell'esame sulla legge europea 2013 bis a firma di Gianluca Pini, a cui il governo e il relatore avevano dato parere contrario. Voti a favore 187, mentre 180 i contrari. 7 voti in una Camera, ricordiamo, come Montecitorio, dove c'è il premio di maggioranza, quindi è una sconfitta che brucia ancora di più per il governo. L'emendamento modifica l'articolo 2 della legge 88 sul risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, di fatto inasprendo le pene nei confronti dei giudici. A votare a favore, oltre alla Lega ovviamente, Forza Italia, mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto. A questo punto si contano i franchi tiratori del PD. Il Movimento 5 Stelle infatti dice e attacca Berlusconi con i gioirà e bisogna stanare l'ipocrisia dei democratici. E invece smussa i toni Ettore Rosato del PD, che spiega: al Senato ci sarà la possibilità di modificare il testo. Insomma, una mattinata non facile per governo e maggioranza qui alla Camera, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, di questo sicuramente si tornerà a parlare nel corso della giornata e ne torneremo a parlare naturalmente anche in effetto giorno. Facciamo il punto sulle inchieste, ci muoviamo ancora una volta tra Expo e Mose, inchieste che a questo punto si incrociano. Raffaella Calandra, ciao, buongiorno. Ciao Simone, si incrociano perché, come ci sono i nomi del passato che ritornano sia nell'inchiesta Expo come in quella Mose, ci sono anche i nomi che ritornano in entrambe le indagini, che in questo momento fanno riaprire dibattiti e interrogativi intorno alla Tangentopoli mai finita e sui nuovi provvedimenti anticorruzione. C'è infatti almeno un nome che ora è presente negli atti dell'inchiesta veneziana e che invece ritorna già anche in quella milanese, ed è quello di Erasmo Cinque, uno uomo dell'ex ministro Altero Matteoli, lui che mise in contatto Giovanni Mazzacurati, considerato il dominus degli appalti e ora delle tangenti in Laguna, con l'allora titolare del Ministero dell'ambiente. Ebbene, il suo nome ritorna anche nelle carte milanesi su Expo come il presunto beneficiario di una mazzetta del 5% sull'appalto più importante dell'esposizione mondiale, quello da 65 milioni per la realizzazione della cosiddetta piastra. Ma perché ritornano gli stessi nomi? Perché c'è illegalità diffusa. Per questo, questa è l'opinione della procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, che poi considera inutili alcuni provvedimenti anticorruzione che il governo si prepara a presentare forse venerdì in Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nordio. prevedibile e inutile, l'inasprimento delle pene e delle nuove ipotesi di reato come l'autoriciclaggio e altre cose. Capisco la politica che asseconda e interpreta l'opinione pubblica che in questo momento è assetata di sangue. Va detto che da un punto di vista tecnico è assolutamente inutile. Ci sono anche personaggi adesso in comune tra le due inchieste, Mose e Expo. Vi è una tale incertezza normativa, e vale soltanto la discrezionalità di chi sta nei gangli della pubblica amministrazione, allora è pressoché inevitabile che da parte di questi ultimi vi sia la tentazione ad avvalersi di questa loro posizione di preminenza per chiedere denari, e altrettanto che vi sia una corsa da parte degli imprenditori a offrirli, sapendo che se così non fanno restano automaticamente esclusi. Questa è l'opinione di Carlo Nordio, che ascolteremo per intero una lunga intervista in A Ciascuno il Suo domenica alle 20:30. Per quanto riguarda ancora le due inchieste, su quella Mose va detto che ci sono ancora nuovi filoni aperti che riguardano anche il finanziamento ai partiti, filoni che saranno ulteriormente sviluppati nelle prossime settimane, mentre sul fronte milanese di oggi da registrare la decisione del GIP di Milano Fabio Antezza di concedere gli arresti domiciliari all'ex numero due di Expo Angelo Paris, e questo nonostante il parere negativo della procura. Simona. E grazie alla nostra Raffaella Calandra per questi aggiornamenti. Altra inchiesta, questa volta della procura di Napoli. In manette un comandante della Guardia di Finanza di Livorno, Laura Viggiano da Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno. Per evitare o modificare gli esiti negativi delle verifiche fiscali, alcuni imprenditori napoletani hanno pagato mazzette riscosse da un commercialista, Pietro De Riu, per conto dell'attuale comandante provinciale della Finanza di Livorno, il colonnello Fabio Massimo Mendella, e di altre persone non ancora identificate. Entrambi sono stati arrestati oggi nell'ambito di un'inchiesta dei magistrati partenopei Vincenzo Piscitelli ed Henry John Woodcock, che ipotizzano i reati di concorso in concussione per induzione e di rivelazione di segreto d'ufficio. Dalle indagini condotte dalla Digos e dalla stessa Guardia di Finanza è emerso che il valore delle tangenti incassanti è di oltre 1 milione di euro. I fatti si riferiscono al periodo 2006-2012, durante il quale Mendella è stato prima responsabile del settore verifiche presso il Comando Provinciale di Napoli e poi trasferito al Comando Provinciale di Roma. A beneficiare dei presunti favori sarebbero stati, come abbiamo detto, alcuni imprenditori, in particolare la società Svota S.p.A., il cui legame con il colonnello ne ha determinato il cambio di sede quando Mendella è stato trasferito nella capitale. Il procuratore capo di Napoli, Giovanni Colangelo, ha tenuto comunque oggi a ribadire che nonostante questo caso vi è assoluta fiducia nel lavoro delle Fiamme Gialle. È tutto da Napoli. E grazie a Laura Viggiano. Noi passiamo all'estero adesso e parliamo di Iraq. Iniziamo dalla cronaca di quello che sta succedendo in queste ore, dove c'è mezzo milione di persone in fuga. Sentiamo il servizio. Sostiene l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che oltre mezzo milione di persone è in fuga dalla città di Mosul, la seconda città dell'Iraq, caduta ieri sotto il controllo dei miliziani sunniti dell'ISIS, che si ispirano ad Al-Qaeda. Gli stessi che ora stanno avanzando nella provincia petrolifera di Baiji, in direzione di Baghdad. Ieri il premier iracheno al-Maliki ha invitato i civili a una mobilitazione generale contro gli jihadisti, ma è difficile immaginare che sarà ascoltato. Secondo testimoni, forze armate e autorità locali di Mosul, infatti, hanno subito ceduto il passo agli jihadisti e si sono dati alla fuga verso est, verso il Kurdistan. La geografia è importante qui. Mosul dista 240 chilometri dallo sciita Iran, 140 chilometri dalla Turchia, ancor meno dalla Siria, dove ormai spadroneggiano i gruppi ispirati allo stesso feroce credo di Al-Qaeda. E non a caso la Siria di Bashar al-Assad ha subito offerto il suo aiuto a Baghdad contro l'ISIS. L'avanzata sunnita a Mosul ha intanto risvegliato gli sciiti iracheni, che lo storico leader Muqtada al-Sadr ha già richiamato a difendere i luoghi santi dello sciismo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E saluto Alberto Negri del Sole 24 Ore in linea con noi per un'analisi e un commento sulla situazione in Iraq. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Bentornato ai nostri microfoni. Allora, come dire, ce lo eravamo quasi dimenticato l'Iraq. Beh, certo, era sfuggito dal mirino dei media, soprattutto di quelli italiani, ma questa offensiva di Al-Qaeda con la sigla di Stato Islamico dell'Iraq e del Levante è in corso da gennaio e si erano già impadroniti jihadisti di Fallujah, di ampie fette della città di Ramadi e delle zone sunnite. Se nei prossimi giorni continuerà questa avanzata dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, ecco, si profila uno scenario inquietante. 11 anni dopo la caduta di Saddam Hussein, Al-Qaeda, nella sua versione più radicale e irriducibile, si insedierà in una regione nevralgica per i rifornimenti energetici ai confini della Turchia, nel cuore del Medio Oriente fino alla Siria. Ecco, l'aspetto geografico da questo punto di vista mi sembra interessante, Alberto, perché noi tendiamo a considerare questi luoghi estremamente lontani, ma come ci raccontava anche Laura Bettini nel suo servizio, siamo Mosul, stiamo parlando di una città che è a 140 chilometri dal confine con la Turchia, ad un passo da noi sostanzialmente. Non solo, ma io sono tornato nei giorni scorsi dalla Siria e ho visto sventolare la bandiera nera proprio dello Stato Islamico del Levante alla periferia di Damasco, nel quartiere di Duma. È vero che loro sono così forti che stanno combattendo su tre fronti addirittura. Uno contro il governo iracheno, un altro contro il regime di Bashar Assad e una lotta intestina contro i jihadisti dell'organizzazione rivale di Jabhat al-Nusra. Pensate un po' che cosa sono riusciti a fare. Sono riusciti praticamente a collegare i due campi di battaglia, quello siriano e quello iracheno, con l'obiettivo probabilmente di creare una zona nord tra la Siria e l'Iraq controllata dal Qaeda. Grazie ad Alberto Negri del Sole 24 Ore. Saluto un altro collega del Sole 24 Ore che ci ha raggiunto in studio su tutt'altri temi. Un uomo, una tassa sugli immobili, Gianni Trovati. Buongiorno. A so voi. Che non è molto bello. È un destino triste, ma inevitabile. Allora, oggi uscite con uno speciale di 16 pagine nella quale spiegate agli italiani come si paga questa TASI e come si paga anche l'IMU, tra l'altro, perché tra una settimana c'è la scadenza. Sì, esatto, perché il 16 di giugno, quindi lunedì, cade anche la scadenza dell'IMU, che è stata un po', diciamo così, trascurata per le varie bizze più nuove della TASI, ma che riguarda milioni di contribuenti in tutti i comuni, perché mentre la TASI si paga solo nei circa 2200 comuni che hanno deliberato in tempo le aliquote, mentre negli altri casi slitta al 16 di ottobre, l'IMU si paga in tutti i comuni sulle abitazioni, sulle case diverse dall'abitazione principale, su tutti gli altri immobili e così via, sulla base delle aliquote dell'anno 2013. Vale 8-9 miliardi l'IMU sugli 11 totali in arrivo da IMU e TASI, e tra l'altro si paga anche su chi ha solo una prima casa ma ha delle pertinenze in eccesso, per esempio un secondo garage, una seconda cantina o così via. Naturalmente poi un inferno, un labirinto nel quale un labirinto inestricabile già nella vecchia IMU, che aveva le sue buone 100.000 aliquote, la TASI, secondo i calcoli di Assosoftware, ne aggiunge a livello nazionale circa 95.000-96.000. Insomma, siamo a 200.000 aliquote, alcune decine di migliaia di tipologie di detrazioni diverse, perché i comuni hanno libertà piena e non trascurano nessun caso. Ci sono comuni con detrazioni per la vedova ultra 65enne, titolare di pensione di reversibilità, c'è di tutto. Una quantità di combinazioni che nemmeno il Super Enalotto, il Sole 24 Ore, prova a fare chiarezza. Oggi c'è lo speciale di 16 pagine, andate e comprate. Gianni Trovati, grazie e buona giornata. A proposito di tasse, l'Unione Europea ha aperto un'indagine per esaminare se il regime applicato da Irlanda, Olanda e Lussemburgo a Apple, Starbucks e Fiat Finance è in linea con le norme sugli aiuti di Stato. Nel contesto dei bilanci ridotti è importante che le grandi multinazionali paghino la loro parte di tasse, ha detto il commissario Joachim Almunia. Anche di questo, tra l'altro, si è parlato oggi in un convegno organizzato, al quale ha partecipato anche Confindustria Radio TV. Il presidente De Laurentiis dice, parla di multinazionali che restituiscono pochissimo al sistema paese in occupazione e tasse. Non solo questo al centro, ma anche lo sciopero della RAI. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, prima Assemblea Nazionale ad un anno dalla Fondazione per Confindustria Radio Televisioni, l'occasione per fare il punto su un settore economicamente maturo ma che presenta ulteriori margini di crescita, grande la concorrenza che a radio e TV arriva dalla rete e dai social network, da qui la necessità di una maggiore regolamentazione dei cosiddetti giganti del web, capitalizzano guadagni senza sottostare alle regole degli editori tradizionali, accusa e dice Rodolfo De Laurentiis, presidente di Confindustria Radio TV, chiediamo, dice De Laurentiis, di poter competere ad armi pari. Cosa vuol dire questo? Tutela del copyright, dunque fiscalità equa. Intervento anche del presidente di Confindustria Squinzi, chiediamo, dice Squinzi, a tutti i mezzi televisivi di dare un'attenzione diversa al mondo delle imprese creando una cultura favorevole all'industria. E poi, come dicevi Simone, al centro del convegno, o meglio a margine, anche lo show. Sciopero parziale oggi in Rai e dibattito questo tuttora aperto. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Alla Camera governo battuto sulla responsabilità civile dei magistrati, passa a scrutinio segreto un emendamento della Lega, 7 i voti di scarto. In Iraq, 500.000 di persone in fuga da Mosul, i qaedisti controllerebbero anche la provincia di Baiji. La Commissione europea apre un'inchiesta su Apple, Starbucks e Fiat Finance, i regimi fiscali di Olanda, Irlanda e Lussemburgo potrebbero configurarsi come aiuti di Stato. La settimana alla scadenza dei tasi e IMU, entro il 16 giugno il versamento dell'acconto. Adesso parliamo di mondiali, ma non per parlare di calcio nella fattispecie, avremo tempo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e avrete tempo soprattutto tra 40 minuti che c'è tutti convocati per parlare in realtà di San Paolo, come sapete sta sconvolta da uno sciopero della metropolitana in vista dei mondiali, sentiamo il nostro inviato. Prima il braccio di ferro, poi la tregua, ora la decisione definitiva. I lavoratori della metro di San Paolo hanno deciso di sospendere lo sciopero che da 5 giorni paralizzava la città. I dipendenti hanno chiesto un aumento dello stipendio del 12%. Per ora i sindacati hanno appunto sospeso le manifestazioni, ma hanno avvertito che se non si troverà un accordo entro oggi, la protesta riprenderà proprio domani, il giorno della cerimonia d'apertura dei mondiali che si terrà a San Paolo, prima della partita tra Croazia e Brasile che inizierà alle 17 locali, le 22 in Italia. Il presidente del sindacato alla guida dello sciopero, Altino Prazeres, ha dichiarato che il suo gruppo è disposto ad accettare un aumento ridotto rispetto a quello del 12% inizialmente richiesto, ma solo se il governo offrirà un incremento nei benefit. Sul tavolo anche il reintegro dei 42 scioperanti finora licenziati per giusta causa. E anche a Rio de Janeiro e Porto Alegre assemblee di lavoratori potrebbero decidere altri stop alle reti metropolitane cittadine. In questo quadro una buona notizia arriva però sempre da San Paolo, dove l'impegno del governo a erogare nuovi fondi per l'edilizia abitativa ha scongiurato almeno la protesta del movimento dei senza tetto. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mangaratiba. E si fermano intanto i tassisti in Italia e in Europa, come già vi dicevamo nei titoli, macchine ferme a Londra, Parigi, Berlino, oltre che Roma e Napoli. Come vanno le cose a Milano? Lo chiediamo in diretta a Lucia Maffei, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, sono circa 40 i taxi parcheggiati al motore spento qui alla stazione centrale, anche se vengono comunque istituite delle corse speciali per le categorie proteste. I manifestanti, i tassisti sono circa un centinaio, 50 dei quali arrivati apposta da Torino per il giorno di sciopero internazionale e presidiano in modo pacifico l'area sotto le quattro pensiline che tra un pilastro e l'altro è tappezzata di striscioni. Il più grande dice: i taxi sono da sempre il simbolo di questa città. I tassisti sottolineano che i taxi sono un servizio pubblico e severamente regolamentato, una cosa a vantaggio della sicurezza dei cittadini e degli utenti. Uber, al contrario, dicono i tassisti, non usa tassametri regolari e non applica tariffe certe. Lo sciopero continua fino alle 22 di oggi, ma i taxi restano a disposizione per gli anziani, le donne incinte e per chi deve andare o tornare dall'ospedale. Alle vetture che partono con i clienti a bordo viene però applicato il cartello servizio sociale. statale, a ricordare che la protesta dei tassisti è ancora in corso. È tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie a Lucia Maffei per questi aggiornamenti. Saluto Gianluca Pini, deputato della Lega. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, ha firmato lei l'emendamento sul quale il governo e la maggioranza sono andati sotto? Si è parlato dei franchi tiratori, in realtà c'è qualcuno che è stato un tiratore estremamente franco, come per esempio Roberto Giachetti, che ha detto che avrebbe votato a favore del suo emendamento, e però la sostanza è questa. Io quello che voglio chiedere a lei è un emendamento sulla responsabilità civile dei magistrati, che cosa contiene e che cosa prevede, molto semplicemente. Prevede l'applicazione di quello che i cittadini sancirono nel 1987 con il referendum, che venne vinto con l'80%, oltre l'80%, dove chiedeva che per errori giudiziari che venivano fatti in maniera manifesta, non diciamo così in maniera per una svista, ma che manifestamente da parte di un giudice, da parte di un magistrato vi fosse la mancata valutazione di quelle che erano le norme del diritto che potevano andare a favore di un imputato, in questi casi qui ci possa chiedere il risarcimento del danno tanto allo Stato quanto chi ha compiuto in maniera dolosa appunto l'errore. E quindi anche personalmente al magistrato, in sostanza, questa tenga conto di questo, deve essere dimostrata la dolosità del comportamento del magistrato, per capirci e per evitare strumentalizzazioni. Non tocca assolutamente, e di questo io mi sono preoccupato insieme ai tecnici delle commissioni di valutarne effettivamente gli effetti dell'applicazione, non tocca assolutamente nessun tipo di indipendenza anche nella valutazione del fatto e delle prove durante un processo, cioè non è che la valutazione del fatto o delle prove possa in qualche modo essere chiamata a responsabilità. Viene chiamata a responsabilità, le faccio un esempio, nel caso in cui il magistrato è in presenza di un imputato che viene imputato per un reato previsto dal codice penale, ma c'è anche un'altra norma che considera quel comportamento non una fattispecie di reato, e il magistrato, e quanto il magistrato, tanto il giudice, fanno finta che quella norma che lo scagiona non esista, quella è una manifesta violazione del diritto, e in quel caso lì allora si può attivare la procedura di risarcimento, però ripeto è un'estensione di quello che già la Comunità Europea e il Governo aveva previsto a seguito di una condanna della Corte di Giustizia Europea nei confronti dell'Italia, perché non c'era questa norma, però è un'estensione legata a un risultato di un referendum che è stato disatteso per più di 25 anni. Poi più avanti parleremo di questo anche con l'Associazione Nazionale Magistrati per capire che cosa ne pensano. Pini, secondo lei questa cosa al Senato può passare oppure no? Guardi, io posso risponderle su quello che accade qui alla Camera, dove facendo i conti in maniera spannometrica almeno un terzo dei deputati del PD presenti hanno votato a favore, cioè circa un'ottantina, 70-80 deputati del PD hanno sicuramente votato a favore del voto segreto. Se verrà confermato, come immagino, il voto segreto al Senato, 99. Senta, direi di sì. Secondo lei quanto sono effettivamente, sono così, franchi tiratori, e quanto invece un cambio d'aria all'interno del Partito Democratico su questi temi? Non c'è nessun cambio d'aria, perché questa qui è la norma che già a febbraio del 2012, sempre a mia firma, era stata approvata in quest'Aula, sempre su una legge comunitaria. E i numeri più o meno sono gli stessi in maniera proporzionata, quindi non direi che è un cambio d'aria, ma non direi neanche un fatto di franchi tiratori. Direi che nel momento in cui si può svolgere il proprio mandato senza vincoli, come prevede la Costituzione, attraverso purtroppo il voto segreto, perché comunque ci sono anche discipline di gruppo che certe volte hanno logiche politiche che schiacciano un po' la libertà di coscienza, ecco, quando ci sono queste possibilità è chiaro che i parlamentari, che rappresentano comunque i cittadini, tengono conto anche di quelle che sono le istanze dei cittadini, tengono conto di quelle che sono le volontà popolari che si sono già espresse più e più volte in questo senso, devo dire. Grazie a Gianluca Pini, grazie deputato voi, della Lega, estensore appunto dell'emendamento approvato oggi sulla responsabilità civile dei magistrati. Le auguro buona giornata e saluto Gianni Faverin, che è segretario generale della funzione pubblica CISL. Buongiorno e benvenuto, buongiorno. Faverin. Buongiorno. Questa mattina avete fatto una conferenza stampa per presentare quelle che saranno le vostre proposte alla ministra Madia quando la incontrerete domani, proprio per parlare di riforma della pubblica amministrazione. Riesce sinteticamente a dirci che cosa proponete al governo? Ma intanto proponiamo una cosa importante, che è una staffetta generazionale vera e non quella che è stata paventata, parlare di 10.000 posti di nuove assunzioni entro il 2018 significa non voler affrontare in maniera seria un ricambio non solo generazionale ma professionale nella nuova rete di servizi pubblici che il governo deve portare, e il governo ha tutte le carte per farlo. Basta dimezzare del 50% le consulenze, che sono ancora 1 miliardo, e utilizzare il differenziale di costo tra un nuovo assunto e le persone che vanno in pensione, che costano un parametro 100 rispetto al 50, e si possono in 3 anni sicuramente assumere 100.000 persone necessarie a un cambiamento di mentalità, di qualità e di professionalità nella nuova rete dei servizi. Purtroppo nel proposto governo non vediamo niente, quindi non vediamo un'idea organizzativa di una pubblica amministrazione che io purtroppo devo dire da troppi anni è volutamente disorganizzata per consentire gli affari, alla faccia delle tante norme che si stanno discutendo anche in questi giorni. Mi scusi, però se lei dice una frase di questo genere, Faverin, voi ci siete dentro a tutto questo, e il sindacato da questo punto di vista come si è mosso? Il sindacato sicuramente, come tutti gli attori, ha delle responsabilità dal punto di vista dell'innovazione e della qualità. Credo che la parte datoriale debba avere un disegno istituzionale, e invece che proporre riforme si può decidere organizzativamente che servono 1/3 degli enti in meno, il 30% in meno dei dirigenti, mettere sotto controllo gli acquisti e i costi standard, per cui chi ha acquistato o fatto opere superiori al 10% del valore di mercato paga direttamente senza aspettare la Corte dei Conti, e valorizzare le competenze vere che ci sono all'interno invece delle consulenze. Io credo che, come ogni parte datoriale, parliamo di una multinazionale di servizi alla comunità e alle imprese, serva una volontà di connettere reti disconnesse di servizi, e la si chiama burocrazia. Ma perché? A mettere insieme l'autorizzazione comunale dell'azienda sanitaria regionale e i controlli in INPS, chi ci deve pensare? Il lavoratore oppure tutti i politici, anche questi innovatori, hanno paura di togliere dai posti di comando persone anche nuove di età o di esperienza, che però gestiscono tasse dei cittadini e dei lavoratori senza preoccuparsi della produttività e della qualità. Certo che abbiamo le responsabilità, ma siccome tutto il Paese vuole andare verso un aumento di produttività, bisogna progettare i servizi che servono, non mettere mano, come sembra, alla dirigenza col salario di risultato, 21esimo provvedimento in 20 anni dei dirigenti, per ancorarla al PIL. Ma quale PIL? Ma se un dirigente bravo deve essere pagato, se un incapace deve essere mandato via, non ancorare al PIL il suo risultato. Allora, Faverin, io intanto la ringrazio, torneremo a sentire lei o qualcuno dei suoi colleghi quando questa riforma sarà approvata, che dovrebbe essere nella giornata di venerdì dopo, appunto, di Sant'Antonio. Dopo il confronto di domani. Salve, buona giornata. Noi ci fermiamo, poi c'è la borsa, poi dopo ci ritroviamo e ritorneremo a parlare di responsabilità civile dei magistrati, lo faremo con la NM, parleremo anche di immigrazione e di, insomma, dei centri di accoglienza, dei comuni siciliani letteralmente al collasso. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Poco fa il Senato ha respinto le dimissioni di 2 senatrici ex Movimento 5 Stelle, cosiddette dissidenti, ossia Laura Bignami e Maria Mussini, che avevano appunto deciso di dimettersi da senatrici. Alla Camera invece il governo è stato battuto sulla responsabilità civile dei magistrati, è passato a scrutinio segreto un emendamento della Lega con 7 voti di scarto, astenuti SEL e Movimento 5 Stelle. In Iraq, 500.000 di persone in fuga da Mosul, dicono le organizzazioni umanitarie. I qaedisti controllerebbero anche la provincia di Baiji, molto ricca dal punto di vista petrolifero. Commissione Europea ha aperto un'inchiesta su Apple, Starbucks e Fiat Finance. I regimi fiscali di Olanda, Irlanda e Lussemburgo potrebbero configurarsi come aiuti di Stato, dice Bruxelles. Apple replica: paghiamo ogni euro di tasse. No, non ci sono trattamenti di favore. La borsa. Borse in diretta. E nonostante una giornata piuttosto positiva dal lato dei titoli di Stato, questa mattina c'è stata un'asta di bot a 12 mesi e i rendimenti sono andati bene, nel senso sono stati in calo. Il FTSE MIB cede l'1,04%, il FTSE OSHARE l'1,10%, negativa anche il resto d'Europa, quindi una tendenza generale, meno 0,97% il DAX a Francoforte, Parigi meno 0,76%, e per quanto riguarda Londra un calo dello 0,60%. Andrea Fontana, Radio Corre il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Ciao a voi. Allora, come mai vanno giù le borse oggi? Beh, veniamo da quattro sedute consecutive di rialzo, oggi è una seduta piuttosto scarica dal punto di vista del calendario macroeconomico, è naturale che i mercati preferiscono alleggerire in vista di dati, indicazioni più specifiche sull'andamento dell'economia e sull'andamento della ripresa in Europa. Ne pagano le conseguenze soprattutto le banche, che comunque vengono da una settimana positiva, guadagni tra il 5 e il 10%, non a caso quella che perde di più è Mediobanca, che perde il 3%, ma viene da una settimana dove aveva fatto quasi più 10. È negativa anche Mediaset, meno 3,09%, positive solamente Moncler, più 0,48%, Ferragamo, più 0,33%, Telecom Italia, più 0,05%. Ancora brevissimamente, Andrea, su Monte dei Paschi. Sì, grandissima la volatilità su questo aumento di capitale, abbiamo visto due giorni in cui il titolo faceva fatica ad aprire e in cui i prezzi teorici erano andati alle stelle, più 43% in due giorni, oggi il mercato torna, il titolo è tornato in contrattazione, chi chiaramente aveva esercitato le opzioni in questo momento ha in mano titoli che va a vendere facendo un certo margine, quindi questo spiega il meno 16% di oggi, quindi c'è stata un po' un'ondata di titoli in vendita e questo ha spiegato e alla base la performance di oggi. Grazie ad Andrea Fontana di Radio Corre il Sole 24 Ore, buona giornata. A voi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Solo un paio di sms, Giampiero che un po' brutalmente dice: ma tutti questi stranieri dove li mettiamo? È un po' brutale detta così, però tra un attimo ne parleremo. E non male invece la battuta dell'altro ascoltatore che ci scrive: a quando la responsabilità civile dei parlamentari per le multe che l'Italia si becca da Bruxelles per insomma gli errori che vengono fatti nella legge, il ritardo del recepimento delle direttive. Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, come giudica l'emendamento Pini, che poi di fatto è la riproposizione dello stesso emendamento di due anni fa? Esattamente, ma la giudico un fatto molto grave. Si cerca oggi di introdurre quell'azione diretta che non si riuscì a introdurre nel 2012, cioè un'azione diretta che non ha uguali in nessun altro ordinamento occidentale e presenta evidenti profili di incostituzionalità, perché si presta a ovvi usi strumentali. Chi si vuole liberare di un pubblico ministero, di un giudice che ritiene scomodo, basta che gli faccia un'azione diretta senza nessun tipo di filtro, senza nessuna limitazione, ed ecco ottenuto il risultato. Peraltro a me pare che in un momento che vede la magistratura fortemente impegnata sul fronte del contrasto alla corruzione sia grave che si voglia introdurre una norma che costituirebbe un grave indebolimento della giustizia. Cioè Sabelli, lei ritiene che sia un assalto voluto alla magistratura, per così dire, in un momento come questo? Guardi, io non dico che è un assalto voluto, rilevo soltanto la coincidenza e dico che è grave che in un momento in cui le cronache ripropongono con forza il tema della corruzione si voglia introdurre una norma che oggettivamente costituisce un indebolimento della giurisdizione. Dunque, da un lato si parla di rafforzare il ruolo del commissario anticorruzione, dall'altro addirittura la Camera approva una norma che di fatto indebolisce l'azione giudiziaria. Una coincidenza quantomeno sospetta, dice lei. Io rilevo semplicemente questa successione temporale e lo trovo un fatto fortemente contraddittorio e molto molto grave. Grazie a Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e saluto Enzo Bianco, sindaco di Catania, tra l'altro ex ministro dell'Interno, con lui vogliamo parlare di immigrazione, quindi insomma direi che è adatto sia nel suo ruolo amministrativo che sia nel suo ruolo di ex ministro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno e benvenuto Bianco. Allora, molto brutalmente ci scrive un ascoltatore, ma tutti questi stranieri dove li mettiamo? Messa così naturalmente, ripeto, è molto brutale, e però la domanda ci sta perché i flussi sono di dimensioni impressionanti. E andranno a crescere purtroppo ancora. Andranno a crescere, si parla addirittura, la cifra potrebbe essere... Centinaia di migliaia di persone che stanno accampati nei campi in Libia, dove oggi c'è un vero e proprio buco nero, lì praticamente non c'è lo Stato in questo momento, non ci sono forze di polizia. Io ho personalmente ascoltato la voce di alcuni di questi disperati che venivano dalla Siria, una famiglia con 5 figli di quelli che erano rimasti nel naufragio per 5 ore in acqua, e mi hanno raccontato che nel loro campo c'erano decine di migliaia di persone, loro hanno preso già 5 mesi, e immaginate adesso col bel tempo, con le condizioni climatiche che vanno a migliorare, le stime sono impressionanti. Vorrei capire qual è la condizione dei comuni siciliani come il suo, perché io poi so che ieri c'è stato un incontro col ministro dell'interno Alfano, domani dovrà essere presentato una sorta di piano, però vorrei sabato probabilmente il ministro dell'interno verrà qui per un vertice in una delle città siciliane direttamente interessate, perché noi non ne possiamo più. Siamo sostanzialmente in una condizione di drammatica emergenza, ci troviamo ad affrontare con le risorse limitate dei comuni e con qualche sostegno da parte del volontariato, da parte dei prefetti, una condizione che è una condizione assolutamente drammatica. Pensi che in questo momento nella sola provincia di Catania ci sono non meno di 10.000 persone. Esattamente a questo volevo arrivare, ai numeri, ma dove vengono accolti, Bianco? Guardi, condizioni di emergenza, noi non siamo attrezzati per... 4.500 stanno al centro Cara di Mineo, che era un centro per i residenti asilo. Io li ospito dove posso, ho praticamente 3 palazzetti dello sport che sono stati utilizzati a questo scopo, la gente e il volontariato si sta dando veramente un grande fare con grande generosità, ma non siamo in condizione di gestire da soli questo dramma che ha proporzioni. L'Unione Europea ci volta le spalle. Mi consenta di dire perché il pattugliamento dell'operazione Mare Nostrum la devono fare solo i marinai italiani e non anche quelli della Germania o della Scandinavia, se queste sono le frontiere dell'Europa e se questa è un'operazione dal punto di vista umanitario ineccepibile. Sa quante migliaia di persone abbiamo salvato da morte sicura in un mare che è un cimitero di guerra sostanzialmente. Però non possiamo più farlo da soli, non ce la facciamo, siamo in condizioni veramente drammatiche. Io domani per esempio ho nel porto di Catania una nave bellissima della Walt Disney che mi porta turisti che sono fonti di vita per una città in condizioni sì. disagiate come Catania, e mi trovo a dover gestire questa condizione insieme col dovere dell'accoglienza in un porto che non è attrezzato per ospitare migliaia di persone che arrivano. È così la stessa cosa ad Augusta, a Siracusa, a Pozzallo e a Porto Empedocle. In questi 4 porti sono arrivati il 95% degli stranieri che sono arrivati da Nord Africa. Allora la ringrazio Enzo Bianco, ci tenevamo a fare questa sottolineatura sulla situazione che vivono i comuni siciliani. Noi andiamo a chiudere nel giorno nel quale il Presidente del Consiglio è in Cina anche a portare un pezzo di Made in Italy, o a tentare di portare un pezzo di Made in Italy ed eccellenze italiane. Si parla oggi qui nella nostra sede del Sole 24 Ore, la 6ª edizione dell'Axari Summit, evento di riferimento che coinvolge i protagonisti del settore moda, lusso e lifestyle. L'Italia va venduta meglio, dice a margine dei lavori Lapo El Khan, al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali. Credo che come tutti gli italiani, in quanto imprenditore d'italiano, mi rammarica e mi attrista vedere questo, ma andare avanti vuol dire pulire, fare pulizia, correggere e andare avanti. L'Italia ha tante grandi doti e tante caratteristiche positive. Poi un elemento di debolezza è anche la furbizia e la malizia. Sta facendo bene secondo lei il governo? Quello che mi sento di dire è che oggi in Europa come in Italia è un momento difficile, è un momento dove tutti quelli che hanno dobbiamo fare di più e dare di più. Non si pone la domanda se mi piace o non mi piace il governo, è una domanda che manco mi faccio. La domanda che mi faccio è come posso essere, in quanto imprenditore, di sostegno e di aiuto al mio paese. Un anno fa ho quotato un gruppo che si chiama Italia Independent, dunque io sul mio paese punto e io il mio paese lo amo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Partiamo con una notizia dell'ultima ora. Nella notte Eric Cantor, 51 anni, il capo della maggioranza repubblicana alla Camera, è stato sconfitto malamente alle primarie in un distretto chiave della Virginia. Da chi? Beh, da uno sconosciuto, da David Bratt del Tea Party, un professore di economia al Randolph Mason College di Ashton, sempre in Virginia. Beh, devo dire, è stato un risultato che ha sconquassato le trasmissioni televisive, ha rimesso il Tea Party al centro dell'equazione politica, ha paralizzato sondaggisti, esperti, commentatori e soprattutto spiazza la Casa Bianca per la legge sull'immigrazione e ha gettato lo scompiglio nel Partito Repubblicano. È un voto di protesta, al centro le tensioni sull'immigrazione, ma direi che di questo ne riparleremo nei prossimi giorni, perché ci saranno reazioni, perché la vicenda merita approfondimenti, soprattutto in vista delle elezioni del 2016. Intanto però vorrei occuparmi di un'altra notizia che ha fatto salire la febbre dei media in America: i campionati del mondo di calcio in Brasile, che come tutti sappiamo partono domani. Tough draw, they're in the group of death, but I think the US team's coming on. Beh, avete sentito televisioni americane che parlano di che cosa? Beh, della World Cup, della Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo brasiliana. L'America comincia ad avere un po' la febbre del calcio e della Coppa del Mondo. Noi immaginiamo che gli americani siano, come dire, un po' distaccati dal calcio rispetto agli altri grandi sport che li appassionano: il basket, l'hockey su ghiaccio, il baseball e naturalmente il football americano. Però il calcio, come sapete, è cresciuto moltissimo. Certo, quest'anno non è che hanno delle grandissime probabilità gli americani, che lunedì giocheranno la prima partita di questi mondiali contro il Ghana e domani naturalmente la grande inaugurazione, dove sfilerà anche la squadra di calcio americana. Ma torniamo a parlare di questo calcio americano, perché vi dicevo, gli americani hanno una grande passione per il calcio. Ci sono dei fenomeni sociologici legati al calcio che da noi non esistono. Per esempio le soccer moms, le mamme del calcio, sono diventate una categoria sociale. Sono queste mamme, queste madri dei sobborghi americani che portano i figli in vari sport naturalmente, ma soprattutto al calcio, al gioco del calcio, e stanno lì a guardarsi tutta la partita, cosa che non fanno, attenzione, con altrettanta facilità per il basket. Magari li lasciano e poi li vanno a riprendere, invece lì si fermano. E queste soccer mom sono diventate veramente una grande bandiera americana. Qual è la caratteristica del calcio che attira soprattutto i giovani? Perché i giovani giocano il calcio in modo strepitoso, c'è una gran quantità che giocano, è forse il gioco più importante oggi in tutte le scuole superiori, nelle scuole medie, nelle scuole elementari americane, perché per esempio il football sta subendo una crisi di immagine, è uno sport violento. Il calcio è comunque uno sport più leggero, uno sport più elegante, uno sport competitivo, è uno sport completo. E dunque nelle scuole americane queste soccer mom lo hanno votato come il loro sport preferito. I giornali, che anche loro parlano tra l'altro di questa Coppa del Mondo, il New York Times di ieri per esempio ha pubblicato un lungo articolo sulla tipologia del tifoso americano. Il tifoso americano del calcio, secondo questo articolo del New York Times, è molto diverso dal tifoso tradizionale del football americano, del basket, e invece più simile al tifoso europeo, un po' più aggressivo, un po' più cattivello, un po' più, diciamo, casinaro. Cross, and Dempsey is denied again, but Donovan has scored! Oh, can you believe this? Go, go, USA! Ecco, sentiremo, come dire, questo inno al gol, che è un inno al gol che appartiene, diciamo, alla cultura più sudamericana. E questo è un altro elemento interessante. per il futuro del calcio americano, perché è questo che poi ci interessa. Riuscirà il calcio americano davvero a prendere piede, a diventare uno sport competitivo al pari come lo sono gli altri grandi sport? L'altro, a parte le soccer mem, l'altro elemento importante è che la popolazione latinoamericana negli Stati Uniti è aumentata enormemente. Tutti dicono che i tempi dovrebbero essere maturi, però ancora non ci siamo. Perché? Perché c'è un problema economico, perché sono gli altri sport che si sono spartiti la copertura della pubblicità televisiva, in modo tale che a ogni stagione lo spazio televisivo chiave è occupato da uno dei quattro grandi sport. Non c'è sovrapposizione fra questi sport, si giocano tutte in stagioni diverse e dunque non c'è uno spazio perché il calcio possa prevalere. Il futuro però, vi ripeto, secondo me è brillante. Perché? Perché già oggi in America, vediamo un po' i numeri, sono 24 milioni di americani che giocano a calcio, l'8,2, il 9% degli americani considera il calcio il suo sport preferito, c'è una presenza media di 18.000 persone in una partita di calcio negli stadi della Lega americana, che genera però 100 milioni di dollari l'anno di contratti televisivi, non sono una cosa spettacolare rispetto al giro d'affari generato dagli altri grandi sport americani. I diritti per i mondiali 2010, adesso 2014, sono stati venduti a ABC, ESPN e Univision per 425 milioni di dollari, che è di fatto il più grande contratto televisivo con un unico paese nella storia della FIFA. Quindi l'America vince di nuovo dal punto di vista del contratto, del pagamento della pubblicità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo fare ammenda, ho fatto un errore ieri, me l'ha fatto notare Livio Travano, un nostro ascoltatore, che quando ho proposto la canzone del giorno, The Age of Aquarius, ho detto When the Moon is on the Seven High, quando la luna è sulla settima altezza. Non era high, che è così, di nuovo, stando sempre ai termini di febbre, in quel caso era la febbre della droga, ma era on the seven house, e dunque mi sembrava giusto fare questa correzione, ma restando in termine di high, di febbre, restando in termine di Colorado, le Soccer Moms sono nate in Colorado, vi propongo di John Denver, Colorado Mountain High. He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno, un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, Laura Faginini assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24, Effetto Giorno a radio24.it per scriverci, oppure c'è la nostra pagina Facebook, il mio account Twitter se volete, mi trovate Simone Spezia. Noi ci fermiamo qua, ci ritroviamo tra un attimo con GR24, Effetto Giorno naturalmente torna domani alle 13.